noi, no, se è un'emergenza nazionale, come risulta essere, io credo che non possiamo non dare una disponibilità per legge, ma anche per adesione a valori, a principi di solidarietà nazionale, di dignità nazionale. Poi naturalmente dobbiamo anche dettare delle condizioni precise, e lo faremo nella riunione di ieri, di domani. La prima, innanzitutto, è che sia chiaro che emergenza nazionale è, perché insomma il fatto che il presidente Napolitano denunci di non aver ricevuto neppure il decreto legislativo mi sembra piuttosto grave. Ecco, la politica non si fa con la comunicazione. Il 29 di ottobre il Presidente del Consiglio è stato in TV a dire che entro 3 giorni l'emergenza sarebbe terminata. Napoli sta affogando nei rifiuti. Siamo agli onori dei media internazionali, direi non si può provare anche un senso di pena per tutto questo. Io credo che la reazione non può essere quella, diciamo, egoista, leghista, i rifiuti sono di Napoli, fra l'altro ieri... Ecco, appunto, lei ha visto ieri Saviano che ha detto... Infatti, i rifiuti sono dell'Italia, insomma, ecco. Quindi, insomma, la Toscana dice noi contribuiremo per la nostra parte, siamo disponibili... Sì, ma non ora qualcuno dice soccorso rosso al governo, no, noi diciamo semplicemente... che ci sentiamo cittadini italiani e vogliamo risolvere un problema che hanno altri concittadini. Quali sono le condizioni? Le famiglie che escono di casa la mattina, a quei bambini che devono scalare una montagna di rifiuti per andare all'asilo nido. Senta, Presidente, però le chiedo, la vostra parte, ecco. Avete già quantificato quanti... Mi ha chiamato il Presidente Caldoro, mi ha ringraziato per la posizione politica che ho assunto, che ha sbloccato anche altre regioni. Lui parla della necessità di smaltire per un certo periodo di tempo, qualche mese, qualcosa come 700 tonnellate, il che non sono moltissime, insomma. La Toscana potrebbe accollarsi da 100 fino a un massimo di 150 tonnellate senza alterare, diciamo, i suoi equilibri di smaltimento. Ecco. Senta, questo in cambio anche di denaro, glielo chiedo. Però bisogna anche che siano le altre regioni ad assumersi la responsabilità di... Però lei per ora dice, noi siamo capofila a dire... Siamo disponibili. Siete disponibili. Primi della classe non ci piaceva. No, vabbè, insomma... Mi piaceva questo clima egoista, di rifiuto. Insomma, mi sembra che nel paese... i veleni della regione ci siano fortissimi, vengano alimentati, bisogna corrispondere con un senso di solidarietà nazionale, di dignità nazionale e anche di difesa dell'unità della Repubblica. Senta, la Toscana avrà in cambio, immagino, delle compensazioni economiche? I rifiuti vengono, quando sono smaltiti in discarica, non c'è situazione in cui vengano smaltiti gratuitamente. E quindi ci sarà evidentemente una tariffa in Toscana come in tante altre situazioni. Senta, lei ha già definito come egoista la posizione, per esempio Formigoni ha detto mi sono rotto, basta. Ho visto, sì. Beh, lui può, insomma, quando io dico che qualcuno è, come sa che vengo preso di mira. Mi sembra che sia un cedimento appunto a questa idea leghista e sbagliata, perché poi insomma non aiuta né a risolvere i problemi, ma incattivisce il paese. Mi pare un cedimento a questo, insomma. Ecco. Però Presidente, la stanno ascoltando anche molti cittadini della Toscana, di Pisa, di Livorno, di Firenze. Non tutti sono d'accordo, come dire, anche qui la politica deve assumersi delle responsabilità, non è che può... Articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme, e le forme sono quelle per cui di fronte a certe situazioni io penso che un Presidente di Regione, un Parlamento devono assumersi delle responsabilità. Però per concludere, mi pare la soglia minima. Per concludere, Presidente, fa un po' effetto il fatto, lei dice non soccorso rosso, però Caldoro, la prima che è di centrodestra, la prima telefonata che ha dovuto fare per ringraziare a lei, Presidente di una regione di centrosinistra. Questo fa un po'... è un dato, lo sottolineiamo. Caldoro è un Presidente eletto, si trova davanti un problema da risolvere. Non è che per il fatto che è politicamente su un fronte diverso dal mio che necessariamente bisogna fare affatti dispetti. Io penso che la politica deve provvedere, chiacchierare di meno e provvedere a risolvere i problemi del paese. Ecco, purtroppo questo è avvenuto poco e mi pare che, insomma, anche qui, con rispetto parlando, mi sembra che il governo abbia dato per l'ennesima volta uno spettacolo francamente indegno, ecco. Non condivisibile. Le regioni, se si intendono, possono fare qualcosa e credo che sia giusto farlo. Tra l'altro io vorrei che sia chiaro, insomma, il governo deve chiedercelo, ovviamente, ma il governo bisogna anche che obblighi le altre regioni, perché c'è una legge a questo riguardo. Io non ho fatto altro che rispettare la Costituzione italiana e la legge. Sì. Forse queste cose di questi tempi non sono così rivoluzionarie. Siamo usuali. Senta, ma se rimanesse solo la Toscana non si può fare. Non si risolverebbe il problema. Insomma, bisogna che il governo si assuma la responsabilità di rammentare a chi dice che non vuole i rifiuti della Campania, non si capisce bene per quale ragione, poi magari alle mafie e alle camorre, come denunciava Saviano ieri sera, arrivano rifiuti tossici che vengono smaltiti dalle discariche campane. Ecco, bisogna che il governo si assuma la responsabilità di ricordare a tutti che l'Italia è una indivisibile e che proprio a questo riguardo esiste una legge che, di fronte a situazioni di emergenza, impone che si dia una risposta in termini di solidarietà nazionale. La ringrazio, Presidente, buona giornata. Grazie Presidente, buona giornata. Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana del Partito Democratico. Dunque, ha detto 100-150 tonnellate la Toscana è pronta a prendere, delle 700 che la Regione Campania dovrebbe smaltire altrove. Noi nel nostro sondaggio parliamo del Papa e del libro che esce oggi, un libro intervista nel quale il Papa apre con polemiche, discussioni su preservativo e possibilità anche di dimissioni. Sono aperture che vi sorprendono, votate il sondaggio oppure 800 24 00 24, siamo qui tra poco. 24 mattino. Si intitola Luce del Mondo, è il libro intervista che il giornalista tedesco Peter Sewald ha fatto con Benedetto XVI. Il Papa verrà presentato oggi alle 10.30, ma le aperture del pontefice su alcuni temi che hanno già creato dibattito, come l'utilizzo in alcuni casi specifici del preservativo o la possibilità delle dimissioni non escluse da parte del pontefice, stanno facendo discutere. È il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Sono aperture che vi stupiscono, questo è quello che vi chiediamo, e devo dire che il 58% di voi per ora dice di sì votando su radio24.it. Intanto vorrei chiedere al vaticanista del Fatto Quotidiano Marco Politi, che saluto, buongiorno Politi. Buongiorno a tutti. Sono aperture che la stupiscono, e quale delle aperture la stupisce di più? Quella per esempio sull'uso del preservativo oppure sulle possibili dimissioni non escluse dal pontefice? Le dichiarazioni sull'uso del preservativo sono un annuncio clamoroso da parte del Papa, perché nessun pontefice, da Paolo VI a Giovanni Paolo II, fino allo stesso Benedetto XVI, ancora un anno fa, aveva fatto la benché minima apertura sull'utilizzo del condom per combattere l'AIDS. Anzi, l'anno scorso, quando il Papa andò in Africa, disse che la distribuzione del preservativo aumentava il problema, suscitando fortissime proteste, non soltanto nell'opinione pubblica, ma fra i maggiori governi europei e le agenzie internazionali, che a loro volta risposero che il Papa faceva delle dichiarazioni assolutamente irresponsabile. Infatti è proprio da quella domanda che parte il giornalista tedesco, dice, da quell'esperienza, oggi Avvenire pubblica l'integrale risposta che si conclude proprio con questi singoli casi giustificati nei quali si può utilizzare il preservativo, ma sempre per arrivare a una umanizzazione della sessualità. Ecco, le chiedo, il Vaticano ha precisato, non c'è nessuna sconfessione della dottrina cattolica, possono stare insieme le due cose? Rimane in piedi l'impianto dottrinale che nega la validità dell'uso, anzi nega la liceità dell'uso del preservativo, perché questo in qualche modo fa già parte di quello che Paolo VI aveva detto nell'enciclica Humanae Vitae contro i contraccettivi in genere, sia i contraccettivi chimici sia i contraccettivi meccanici. Semmai il Papa da questo punto di vista arriva molto in ritardo rispetto a quello che molti teologi, ma anche cardinali avevano detto negli ultimi anni. Per esempio il cardinale Tettamanzi aveva già scritto in un suo libro di bioetica che per esempio una moglie che sapesse che il suo marito era infetto aveva il diritto di difendersi e quindi di pretendere che lui usasse il preservativo. E lo stesso cardinale Cottier, che era teologo della casa pontificia, quindi diciamo il teologo ufficiale del Vaticano, aveva già dichiarato 4 anni fa che in queste zone disperate dell'Asia e dell'Africa usare il preservativo per impedire la trasmissione dell'infezione rispondeva all'imperativo non uccidere. Quindi il Papa da questo punto di vista è arrivato in ritardo. Io intanto voglio salutare anche, ci stanno ascoltando, padre Piero Gheddo, che saluto, buongiorno, missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere, buongiorno padre Gheddo. Buongiorno. Quasi coetaneo del Papa, se non sbaglio. Sì, mancano 2 anni. Mancano due anni a lei, a me. Saluto anche Ivan Scalfarotto, vicepresidente del Partito Democratico, buongiorno Scalfarotto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora intanto padre Gheddo, lei di missioni, per quanti anni ha frequentato le missioni, soprattutto in Africa? Ma ho frequentato dal 1960-64. Ne ho fatte tanti in Africa, penso una ventina di viaggi, ma in tutto il mondo. In tutto il mondo, certo. Ma volevo. Che ne pensa? È un'apertura oppure? Volevo riprendere un attimo quel che diceva politica, saluto anche lui. Guardi che io proprio ieri, quando lei mi ha invitato a questo incontro, c'era qui la mia segretaria, suor missionaria Franca Nava, missionaria dell'Immacolata, che è stata missionaria in India e in Bangladesh, e nel 1968 era qui in Italia per un corso di ginecologia, per il parto, eccetera, e in quel tempo, nel dicembre o novembre 68, Paolo VI diede un'udienza alle ostetriche, e è andata anche lei, è stata chiamata, è andata, e dice che Paolo VI, mi assicuro che ha detto questo, ieri sera non ho fatto tempo a trovarlo, non sapevo, dice... Quando diceva queste ostetriche, infermiere di donne, no? Quando vi capitano casi un po' straordinari, non mandateli dal confessore, cercate voi di metterli a posto col vostro consiglio. E il Papa consigliava anzitutto il metodo Oginoknaus, cioè i metodi naturali per evitare la fertilità, no? Sì. Ma per questo bisogna essere d'accordo in due, diceva. Se invece, per esempio, un uomo si ubriaca sempre, è giusto che la moglie faccia qualcosa per evitare una gravidanza indesiderata. Come a quel tempo non c'era, si capisce, la AIDS, quindi certo. Diceva ancora il Papa, se il marito ha una malattia venerea oppure per una malattia ereditaria è matto, è portato alla pazzia, è bene che la moglie pretenda il condom da parte del marito. Cioè questo il Papa ci sta dicendo. Paolo VI. Padre Gheddo ci sta dicendo una cosa che ovviamente, però la dottrina... Il problema è che nel 1968 non c'era questa, informazione così particolareggiata, così accanita, così... Io mi ricordo quegli anni, perché forse anche Marco Politi c'era al concilio no, c'era una grande informazione, ma dopo la Santa Sede va bene, insomma, Papa diceva, faceva, pubblicava le sue encicliche. Oggi invece naturalmente ogni parola che dice sembra una rivoluzione. Per lei non è una rivoluzione, soprattutto? No, rivoluzione nella vita pratica no. Rivoluzione nel fatto che Benedetto XVI abbia detto questo per la prima volta, questo è vero. Questo sì, insomma, la forza del messaggio. E costituisce per molti una certa, stupore. Ecco. Mi fa sentire anche cosa ne pensa Ivan Scalfarotto. Ma esponente... no, io però volevo finire. Sì, scusi un attimo. Però nelle missioni io ho chiesto parecchie volte di questo faccenda del preservativo, specialmente in Africa, ma anche in altre parti del mondo. In genere bisogna tener conto che nei nostri cattolici delle giovani chiese, che sono le prime generazioni di cristiani, sono quasi considerati l'Antico Testamento della storia della salvezza in quel popolo. E allora la Chiesa presenta la verità della parola di Dio e del matrimonio cristiano, ma tollera una certa gradualità nell'attuazione di quella dottrina. Per esempio, un esempio di matrimonio in India, sono stato molte volte in India. Un missionario di 40 anni di India, padre Augusto Colombo, mi diceva, ormai 57 anni di India, diceva: il matrimonio è un patto valido quando c'è tutta la dote, sì, che viene data anche gradualmente. Se dopo un 2, 3, 4 mesi la dote non viene, il marito è stanco di quella moglie e prende un'altra. E noi cosa facciamo? Se mandassimo alla congregazione tutti questi casi da risolvere, non finiremmo più. Insomma. Sì, lei dice, cioè, insomma scontano questo tipo di problematica. Mi faccia chiedere che ne pensa Iva Scalfarotto. Iva Scalfarotto è un rappresentante della politica giovane, del Partito Democratico Laico. E lei come l'ha vissuta queste dichiarazioni in anteprima del Pontefice? Ma io devo dire, sono assolutamente in accordo con Politi. Io sono rimasto comunque stupito dal fatto che un no con un'eccezione, un no assoluto con un'eccezione, non è più un no assoluto. E quindi mi sembra che comunque questo sia in qualche modo un'apertura storica, rivoluzionaria in qualche modo, e questo l'ho notata. Ovviamente questo, da un lato, appunto, come si diceva, non scalfisce probabilmente, o tenta di non scalfire, la dottrina tradizionale della Chiesa, che resta una dottrina in questo senso piuttosto oscurantista, nel senso che come dire, le prove, gli studi scientifici, insomma, tutto depone a favore dell'uso del preservativo, soprattutto in situazioni come quella dell'Africa, ma anche in Italia i contagi non sono mica terminati. Proprio leggevo il professor Aiuti che diceva che ancora si contano migliaia di contagi tra le persone tra i 25 e i 50 anni, quindi non bisogna mai abbassare la guardia. Io credo che come dire, la Chiesa dovrebbe rivedere in questo senso le sue posizioni, proprio perché in questi casi ne va della salute pubblica, ne va dell'educazione diciamo al sesso, alla sessualità delle persone più giovani, e come dire, il dovere di proteggersi e di proteggere la propria salute io credo che sia prioritario. Sì. Quindi in un certo qual modo mi pare che vada salutata con soddisfazione, vada rilevata l'apertura. Certo, questa apertura da parte sua. Breaking news. Nuovi aggiornamenti ci arrivano dalle Coree. Purtroppo uno dei soldati sudcoreani è morto, tra i 14 feriti, quindi c'è un morto, altri sarebbero molto gravi. Per il momento queste sono le notizie che ci arrivano dall'Asia. Ecco, vi terremo aggiornati, ovviamente è una situazione davvero difficile tra Corea del Nord. La Corea del Nord, ricordiamo, che ha attaccato un'isola della Sud Corea, c'è un militare sudcoreano morto, una zona del mondo sempre tribolata. Prima di andare velocemente alle informazioni sul traffico, Marco Politi, le chiedo, questo aspetto, dice padre Gheddo, no? In realtà poi c'è la Chiesa che parla per dottrina, per la voce del Papa, e ha parlato per la prima volta aprendo, ma in realtà quello che si verifica nella situazione, ci ha raccontato anche dei retroscena di Paolo VI, è un'altra realtà, quella che magari non viene enunciata, non c'è l'informazione, ma quello che si vive sul campo, anche nelle missioni, è tutt'altro. Sono anche queste due compatibili realtà oppure no? Ma questo è assolutamente vero. Io direi che la realtà prende il sopravvento su posizioni irrigidite. Padre Gheddo ricordava il concilio. Beh, diciamo che dopo il concilio Paolo VI, a metà degli anni 60, istituisce una commissione per studiare il problema dei contraccettivi, e la maggioranza di questa commissione aveva già detto allora che era possibile e lecito usare i contraccettivi in una serie di casi, soltanto che poi Paolo VI, anche in questo incoraggiato dall'arcivescovo di Cracovia, che allora era Wojtyla, decise invece che ci doveva essere un no assoluto. E da allora tantissimi teologi moralisti, oppure in questo caso i missionari sul campo, hanno sempre dovuto trovare una via d'uscita pratica, concreta, rispetto a questo no dottrinario, rispetto a questo veto. È verissimo, in Africa tantissime volte i missionari stessi, le suore, le organizzazioni cattoliche impegnate nel contrastare l'AIDS spiegano anche come usare un preservativo. È chiaro che lo fanno all'interno di una strategia educativa, per cui insegnano anche a vivere la propria sessualità responsabilmente, a essere fedeli all'astinenza in certi casi, però il preservativo ha sempre fatto parte di una strategia complessiva. È la cosiddetta strategia del male minore, cioè laddove non si trova altra possibilità, ecco che il male minore è quello dell'utilizzo del preservativo. Questo per la strategia anche da parte della Chiesa. Ci fermiamo alle informazioni sul traffico e rientriamo da qui. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, padre Gheddo, io le voglio fare questa domanda. Cioè, quando lei sente, non so, un gran laico, come è stato definito, come Pannella, dire ecco finalmente la svolta del Papa, oppure, ma insomma, è il Papa che dice anche ho sbagliato a togliere la scomunica a un vescovo negazionista, se l'avessi saputo cosa ne pensavo non l'avrei fatto. Io, mi hanno insegnato dal catechismo che il Papa è infallibile, allora forse non è infallibile. Ho capito, ma no, voglio ma dire, caro, che caro sta amico, succedendo? Qui bisogna fare un discorso di almeno un quarto d'ora per spiegare. Il Papa non è che sia infallibile in tutto quello che si può anche, non so io, sbagliare qualche opinione personale, tranquilla, ma tanto poi questa è un'intervista. Ma io penso che veramente, lo dico con molta sincerità, non c'è una rivoluzione, una cosa assolutamente nuova, solo chi ignora quello che è la differenza tra l'ideale che la Chiesa presenta, ed è bene che presenti questo ideale del matrimonio cristiano, della parola di Dio, e poi la gradualità nell'attuarlo. Dio è un padre misericordioso che capisce, che il Papa deve rappresentare la bontà, la misericordia di Dio. Quindi io dico, intanto il Papa dice che questa riflessione l'ha fatta, questa affermazione, per favorire la lotta contro la banalizzazione della società, per il grande sforzo affinché la sessualità diventi valutata positivamente e possa esercitare il suo effetto positivo sull'essere umano. E perché lui dice c'è la consapevolezza, molti pensano che tutto è permesso e che si può fare ciò che vuole. No, sì. Il Papa afferma che non è vero, la regola è questa. Però dico, meno male che nella società c'è la Chiesa che mantiene fermi i principi e rappresenta l'ideale cristiano del matrimonio, della sessualità. E quindi non è una sconfessione, lei dice, neanche una rivoluzione. No, mi lasci finire la frase. Sì. Meno male che c'è ancora la Chiesa che richiama la sacralità del matrimonio e della sessualità, perché fra le agenzie educative oggi in Italia, dalla scuola, alla radio, alla televisione, ai giornali, a non so a chi altro, chi mai richiama la sacralità del matrimonio e della sessualità? La Chiesa custodisce i costumi più validi e cristianamente approvabili della tradizione cristiana, condannando tutto quello che banalizza e svilisce il sesso. Chi in Italia parla ancora di purezza? Chi parla del valore di giungere al matrimonio puri? Ho capito, non tutto è un valore, padre Gheddo, questo no, è il... Ma no, ma scusi, se noi partiamo solo dal preservativo, non comprendiamo più il quadro generale che è in mente. Ma questo sì, però Iva Scalfarotto, insomma, avete cantato Vittoria Dico, voi laici, insomma, non è che c'è un'interpretazione del Papa un po' estensiva, un po' esagerata, insomma, di pensare che il Papa si sia, e mi perdoni, ammattito, tra virgolette, a sconfessare tutta la dottrina cattolica, non è così. Ma io penso tutt'altro, poi tra l'altro vorrei dire, non confondiamo tra dottrina e realtà, e cioè che il messaggio dottrinale poi tanto viene ammorbidito, perché il messaggio della Chiesa, soprattutto in tempi mediatici come questo, è un messaggio molto potente che arriva direttamente alle persone. Per cui nel momento in cui si dice no al profilattico, io poi riconosco che esistono tantissimi cattolici di base, gente che lavora nelle strade, nelle missioni, che magari ammorbidisce il messaggio, ma resta pur sempre un messaggio potente, che arriva alla società potente, che dice no all'uso del profilattico, in un momento in cui usare il profilattico è disperatamente importante, perché si deve salvaguardare la vita di tanti giovani, di tante persone che rischiano appunto per questo, coperte dall'alibi del peccato, no? Dal dire io non uso il profilattico, perché è peccato, e questo provoca secondo me dei danni devastanti all'interno della società. Sì. Così dire io salvaguardo la purezza del matrimonio significa poi creare degli effetti anche politici molto pesanti in questo paese, per cui per esempio noi abbiamo 1 milione di coppie coniugali che non riescono ad avere nessun tipo di tutela, perché al di là poi dell'ammorbidimento del messaggio, quello che resta è un messaggio politico forte che ha un impatto importante anche nella politica, nella legislazione di questo paese che è molto indietro rispetto al resto d'Europa e a tutte le altre, diciamo, nazioni a democrazia avanzata su tutti i temi che hanno a che fare con lo sviluppo della società, e il ruolo della Chiesa e del messaggio papale in questo caso è un ruolo determinante. Allora, vediamo, c'è spazio per un ascoltatore, Raffaele da Roma, e leggiamo a lei ad ascoltatore principe su tutti, sia sintetico però. Raffaele, che ne pensa? Sinteticissimo, no, io volevo dire due cose. La prima è che il Papa è stato presentato come un conservatore e sono state applicate categorie politiche alla dottrina religiosa. E dunque è un errore, ci si meraviglia dunque adesso di questa uscita del Papa. Infatti però è interessante, però Marco Politi è un uomo nostalgico del passato, custode inflessibile della dottrina, no, io direi conservatore, no, non bisogna avere, no, degli, no, non bisogna avere degli stereotipi su Benedetto XVI, che tra l'altro in privato è una persona molto umana, molto calda, ride, pieno di umorismo, però certamente dal punto di vista dottrinario è molto rigido. Allora diciamo una cosa, che questo divieto dei contraccettivi assoluto non è che sono le tavole del Sinai scese dall'alto, sono una decisione che è stata presa da Paolo VI con l'enciclica Humanae Vitae e che è già stata sorpassata ampiamente dalla realtà di milioni di coniugi cattolici, decine di milioni, centinaia di milioni, che in tutto il mondo usano i contraccettivi, che sia la pillola o che sia il preservativo, senza sentirsi minimamente, certo, in peccato. L'effetto, come allora, ha detto frase, lei, è che lo dica il Papa. La frase del Papa in realtà è un arrendersi alla realtà, okay, quando ormai già cattolici normalissimi, non cattolici di sinistra o di base, cattolici normalissimi usano il preservativo o i contraccettivi, teologi, moralisti e gli stessi cardinali hanno detto che in certi casi era assolutamente giusto usarlo. Questo secondo me è il dato di fatto di queste dichiarazioni. Intanto, io trovo, sì, però strano e anche bizzarro che il Papa si serva di un'intervista per fare questa apertura, sì, quando invece c'è i canali ecclesiali, le istituzioni ecclesiali, cioè avrebbe dovuto essere la Congregazione per la Dottrina della Fede a fare una dichiarazione più che del genere, oppure il Ministro della Sanità Vaticano, che aveva preparato qualche anno fa, il Cardinale Barragan, un dossier. Cioè anche questo modo estemporaneo in realtà poi ci riporta ad una maniera monarchica di gestire la Chiesa, quando sarebbe stato più giusto consultarsi con i vescovi o con i cardinali, sì, e giungere a una posizione frutto anche del lavoro comune. Intanto io, nel ringraziare tutti, dico, di questo libro, un ringraziamento al Papa va fatto, perché ha fatto questo libro intervista nel quale ha risposto senza sapere prima le domande. Dunque dico alla mia Antonella Migliaccio in redazione: qualunque politico ti chiederà prima le domande, tu risponderai: ma il Papa non le ha chieste, lei le vuol sapere prima. A domani.